che sono in barra mobile. Anche io. Buongiorno, Maratella. E dove sei? Pomponio, ma oggi non è disponibile. Ho chiamato stamattina e oggi non è disponibile. E dove ti trovi? Tutto va bene, al prossimo sabato. Ma Roger, dove sei? Dove sono? Sto andando giù in piazza a prendermi, se tutto va bene, l'ultimo pacco di veleno. L'ultimo? Perché l'ultimo? È antropioppiato, scusami. Negativo, non ho capito perché l'ultimo. L'ultimo perché sarebbe ora di buttarle. Quella è una buona idea, vedi? Lo so. Proviamo di nuovo, dai, anzi non proviamo, finiamo di nuovo. E sì, a Ossilandia. Eia, a Ossilandia, in movimento. Dai, allora sto arrivando bene, se vedi l'antennino che ho e con quanto sto uscendo va benissimo. Vabbè, qui sono in zona alta, per il momento. Santiago 9 e Radio 5. Sto arrivando? Eia. E allora va benissimo, non bene. Però ti fa vabbè, una modulazione completamente diversa dal solito, però va bene lo stesso, abbastanza comprensibile. Antenino di quanti centimetri? 90, piccolino. Ah, oh, va bene allora, dai. Per l'Interland Sassarese va benissimo. Ma perché è bassa la modulazione, nel senso che è bassa la voce? No, mentre moduli, no, vabbè, sì, la voce è leggermente bassa, però comprensibile. Poi si sente un trillo, mentre moduli. Quello è il motore diesel. Ah, e come fa piacere. E stai andando? Ando a QTH, per cui andare a Plata Beach. Ah, ecco, prenditi il sole, dai. Negativo, non ti sto copiando, Ho detto, se stai andando a prendere il sole. Aspetta che adesso sto uscendo dai palazzi, ti copio meglio. Hai detto se? L'antennino incomincia a non fungere bene. Tu hai detto, sta andando a prenderti il sole. Tappa di Roggero, a prendermi il sole. Niente, bella giornata oggi, dai. Abbastanza tranquilla. Gabba, speriamo che inizi e finisca così. Ah, a me piace il fresco, la verità, dunque, tu a mio agio. Che mannaggia messicani, buongiorno, chi è? Buongiorno, Antonello Barracuda, semicoppi, da Ossilandia. Oui, buongiorno frate Barracuda, buongiorno, siete tre ben ascoltato. Buongiorno, scusami se non ti ho copiato, il tuo nominativo? Alfa 2 qua, dalla città di Cagliari, coordinate qua in Quale di San Giovanni. Buongiorno anche a te. Lavorando, sì? Negativo, sono in vacanze a giro, andiamo qua per Santa Teresa. Buono, va benissimo, oggi è una bella giornata, dai. Una bella giornata di mare, dunque ti puoi rilassare tranquillamente. Sei in compagnia anche di Antonio Grotte, se lo copi. Ma non so se mi copia, sono basso adesso. Buongiorno anche a lei, buongiorno, 73, ben ascoltato, Antonio Grotte. 7351 anche da parte mia, dai, ben sentito, ben ascoltato, Alfa Bravo se non sbaglio. Positivo e caparoglio, qua c'è un amicaccio, questo amicaccio è Gigi Vulcano, non so se lo conoscete voi. Sì, è quello che sta parlando in questo momento. Mannaggia, pesci cani, io. Buongiorno ragazzi. Buongiorno caro. E vabbè, uno l'hai infiocinato anche oggi, dai. Puoi fare un segno sulla carlinga? Avanti, Barracuda. E ho detto che mi ha fregato, detto. Ma le vittime siamo parecchie. Un attimino, io sto scendendo un attimino dalla BM che sto andando a fare un trasporto, dai, ci sentiamo dopo. Antone, ma perché era diversa la modulazione, Antone? Oh, Antone, ci stai? Oh, tu con la voce da straniero, ho detto, mi hai preso in giro, ho detto, manco accorto me ne sono. È positivo, ma non frego neanche Antonio, io ho capito, ieri sera gliel'ho detto, ma no, lui attaccava te, mi ha detto che lui ha fatto e conosce le armonie, le cose della timbrica della voce. E infatti lui già è stato molto più svelto a scoviarti. No, niente, stiamo andando a Platamona, so dice c'è un piccolo antennino, sicuramente non è il massimo come trasmissione, e dunque sempre piccolino in macchina. Beh, se gliel'ho detto io, quando gli ho detto Gigi Vulcano, ho capito, lui se l'ha immaginato da quello di ieri sera che gli ho fatto, ho capito, allora si è già pensato, ho capito, se no se non sarebbe accorto, se io non avrei detto di salutare che c'era a me come amico Gigi Vulcano, lui si sarebbe reso conto, si è reso conto quando io ho detto Gigi Vulcano, ho capito. Ah, ecco, e allora sì, dai. Vediamo la prossima volta se riesci a fregarmi, dai, devo stare attento allora. Ah, sta bello. No, non lo faccio spesso, dai. No, lo faccio ogni tanto così, ma scherzando, però dai, nel senso buono. No, ecco. Sì, no, ma volevo dire, vediamo se la prossima volta mi rifrego, ho detto tutto lì. Ah, è che bellicetto. Ciao, pompone, buongiorno a tutti, c'è anche un break. Aspetta che sto scendendo ben male, no? Fate tale break intanto, che mi controllo a vedere cosa è successo. Sto scendendo stato, aspetta. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Pomponio, buongiorno a Barracuda, buongiorno a Cicino Vulcano, da questa parte Pollicina. Pompo, stai arrivando non bene, di più. Sì, di più, vedo che sto appena accendendo, mi sento un attimo, c'è un vicino. Boh, sembra che sto facendo bene adesso. Lui, a te come sta arrivando? Della chiante? No, bene, sta arrivando come? Sta arrivando bene. Poi scusate un attimino, buongiorno anche a Pollicina, ma questo nomino Pollicina te lo sei messo tu o te lo messo tuo marito? Io non sono sposata. Come non c'è? Io pensavo che era la 50 di D'Antonio, Ma non sono sposata. Era 25. No, Pomponio, amico. Era 25. Ciao lui, buongiorno, buona domenica a tutti. Pomponio. Ehi, ciao Luca, sei ben entrato anche a te. E sono tornato a Pollicina. C'è Antonio dove mi sta chiamando, dimmi Antonio. Oh, ma te, si è fermato l'antenna? No, io ho sistemato ancora no, appena, a parte fuori Simona deve lavare che c'ho Scubi e ha fatto i cosi suoi, hai capito? Adesso dopo deve lavare e sistemare il coso, limite, ancora lo facciamo stasera, se 5 minuti, passi qua e vediamo di controllare questa P27 cosa gli ha preso. Capito? Adesso fa un po' deve pure il terrazzo Simona perché il cane va fuori a fare i suoi bisogni, capito, da terrazzino, quindi cosa fa se so fare cosa? No, già stai uscendo molto molto bene, io sto rimando a casa adesso, sentiamo la postazione fissa, comunque saluta a tutti che c'è in ruota. Stai uscendo molto molto bene, Pollicina, buongiorno e buona domenica. Buongiorno a tutti, scusate prima che vada via il mio amico Barracuda, ma ti stai interessando per il programma degli eventi serali di Ossi di stasera? Allora, stasera dalle 20 in poi, ripeto, c'è Guardando le Stelle, quello oggi, poi per il 27, che comunque ancora non è uscito, ho trovato l'organizzatore, per Music Art è il 27 di sabato, agosto, dalle 5 in poi, quella è diciamo la festa più divertente e abbastanza carina da vederla, la verità, il 27 agosto, dalle 5 in poi di sera. Tu lo sai che in quanto abitante di Ossi ti devi fare promotore di tutte le manifestazioni e tutti gli eventi ossesi, sì? Sì, il problema non ce n'è, la verità è che i cartelloni qua in paese li mettono sempre un po' in ritardo e dunque tocca chiedere per avere un pochettino in anticipo gli eventi, ecco, sono costretto a fare così purtroppo qua in paese. Sì, è questo che devi fare, questo è il tuo dovere. D'accordissimo, cercherò di mantenere la promessa. Comunque ricordate, il 27 sabato dalle 5 in poi, quello è abbastanza divertente. Ci sono tantissimi artisti, ognuno ha le sue particolarità, al centro del paese, dunque il traffico è spostato tutto da un'altra parte, dunque si può tranquillamente camminare a piedi senza che nessuno disturbi, dai. Senza che ci mettino le macchine. No, no, no, quelle sono sempre fuori, tranquilla. Bobo! C'hai da lamentarti tu, Bobo! Allora, questi tardi dove sono andati? Una figata, non ci sono andata. Ho visto, tu volevi fare il dramma, non me ne sono andato. Vuol dire che avevo di meglio da fare. Ah, vabbè, quello senz'altro, vabbè. Quello non lo metto in dubbio, ma picco, tu ieri vieni, sì, siamo lì, bobo, poi vedi, ma scendevo e non mi trovavo. Ma ti seguivi il concerto? Ma me lo volevo fare il concerto. Poi un punto buono l'ho messo, ma ce l'hanno fatto. Luca, ma lo sai che Falchetto mi ha cantato una canzone dei Tazenda in radio ieri? Oh, devo dire che è bravo cantare, io non sono bravo. Appunto, siccome so che tu invece ti diletti, potresti cantarmene uno anche tu. Oh no, no, lascia perdere. Lascia perdere, ma ti vuoi suonare anche la chitarra? Che ce la gira? Puoi suonare quello che vuoi, basta che ti esibisci in radio. Quello che arrivo, andiamo forte, ti sono tu lo che vuoi. Scappa. Adesso vi mollo tutti quanti perché continuo a fare quello che sto facendo in domo e poi me ne vado tutta quanta al mare. Fai bene, fai bene. Avanti un altro. Buongiorno comunque a tutti, ho detto. Buongiorno, buona domenica. Avanti, ha fatto un altro solo. Ok. Ciao Luca, mi pare non sono riuscito a salutarti. Buongiorno. Aspetta un attimino, è qua. Ok, avanti, Frumpusco, Frumpusco. No, ma vedi un po' vicino, insomma, a sistemarsi la camera incasinata, poi va male. Non so come avete fatto il mio parallelo, Luca. Era un amico mio in campagna facendosi un po' di frutta. Ho trovato un ladro, invece che pieno di vespe, la campagna. Perché non c'è più la casa tua? No, io sono su, io abito in Mansalda, mio fratello abita con mamma giù, io non abito a casa di mamma, io abito su in Mansalda, proprio, all'ultimo piano. Antone. Ehi. Ascolta, ho due motorini di macchina che servono per far freddare, servono tipo il radiatore, e quelli vanno bene per utilizzare a far muovere un'antenna. Guarda, anche quelli del tergicristallo vanno benissimo, ma se ti procuro un motore del tergicristallo e ti faccio vedere come gira. Gira lento addirittura, anche perché io sai che c'ha le posizioni, come si chiama, basta dettare i fili giusti e gira lento, fa tutto il giro a 360 gradi, davanti e dietro, quindi ci vuole uno di quelli là, poi vuole fare una staffetta e per poterli agganciare un po' il pezzettino di paletta, quindi si salda, non è un problema, e dopodiché ho un altro pezzettino di paletta sopra e me lo dice agganci l'antenna della direttiva come vuoi tu, capito? Ascoltami un attimo, e quando diciamo colleghi il TL, come fanno a farlo attorcigliare? Lì bisogna fare qualche modifica. Ah, no, non c'è nessuna modifica. Devi lasciargli la misura giusta giusta per girare una parte all'altra, sono stato uccidiato, non preoccuparti, che l'avevo fatto io. E a voglia che andava bene la penna, la direttiva quella piccolina, poi con quella gamba che avevo io, quella era la facevo girare con cose perché pesava più di 20 kg, piazzata. Usavo due furi, già se non ricordo Luca, quando abitavo in Massa del Rizzetto, c'avevo due, una testa da una parte e una testa dall'altra, allora lo facevo così, per poterla farla girare, solo che sembrava la pala di elicottero quando spuntava dal palazzo quasi 4 metri da una parte e 4 metri dall'altra. Perfetto, vediamo un po' cosa esce fuori, ti faccio vedere questi due motorini, diciamo, mi spiego un po' come realizzarli, io avrei preferito il cavo rimanesse fermo e costruire qualcosa in modo che, dai, giri senza che il cavo rimanga fermo, capito, qualcosa del genere. Quindi va bene, quello non è un problema, preoccuparti. Già non si impiglia il capo, basta che tu riesci a fare i 360 gradi, che non lo fai fare tutti i giri completi, mi fai una specie di blocco, con una specie di fine corsa che fai al limite, si costruisce, quando arriva a certo cosa poi si blocca. Si può fare anche così, ma vabbè, comunque alla fine se deve con l'antenna, diciamo, per funzionare bene e sfruttare al massimo deve per forza girare a 360 gradi. Alla fine comunque fatto sta, la minoranza, la maggior parte dei segnali da che zona vengono sempre a 360 gradi, oppure abbiamo dei punti prestabiliti noi per le come si dice, per le propagazioni. No, tu punta a Monte Oro e riceve bene, tu punta a Monte Oro e riceve bene, con le antenne della radio punta. E quello pienamente d'accordo, diciamo che siamo a nord, e diciamo sud-est e ovest, anche lì giustamente arrivano i segnali, o sbaglio? Sì, ma anche verso Sinnoli, capito, anche c'è qualche antenna. Tu punta tutti a Monte Oro, e prendi Monte Oro e Montalvaro, capito, così riesci a prendere rete 4, rete 5, tutti i canali prendi anche a parte della propagazione. No, non hai capito lui vuole usare, vuole in pratica fare la direttiva per il baracchino, non per la televisione, per ricevere il segnale del baracchino, è tutta un'altra cosa quella. Ti regoli, basta che ti guardi lo sneaker, Antonè, il segnale più alto, pigli i blocchi lì, non c'è nessun problema di passare avanti e indietro, una volta che tu vedi il segnale più alto, pigli i blocchi lì e il puntamento è giusto, come arriva lui a te, tu arrivi a lui, no? Io sono andato in banchino, però se vuoi stare con cerchi di spiegarmi meglio. Capito, ho puntato dritto a Monte Oro, le antenne della televisione, quando schiacciavo la portante entrava giusto giusto dentro le televisioni. In direttiva se c'hai quello che fa la lavandriga, perché la lavandriga c'è un segnale pessimo, perché il ripetitore non è puntato a casa, è pieno di riflesso, capito? Se fai una cosa del genere, tu la lavandriga in direttiva, se fai già ti incomincia a fare un po' di dare un po' di problemi. Comunque non conviene neanche farne alla fine, questo non ci avevo pensato, io ce l'ho di fronte a Monte Oro. No, che non le fai TV, non ti preoccupare. Ussi è alto, è come... Prendono tutti bene a Ussi, grazie a Dio. E poi ripetendo che c'hai proprio il canale di fronte per sottissi. A voglia che lo vedi. C'è qualcuno che voleva andare più basso, avanti. Capito. E vabbè, ripigliate la Luca. E Luca sta però... sta chattando al computer. No, comunque è vero, dice, allora per esempio se tu sei Ussi, se vuoi parlare mettere in direzione di Sassari, se vuoi parlare con quelli di Sassari, capito? Se poi vuoi parlare con quelli verso Alghero, verso Cagliari, devi portare verso Cagliari, capito? Però io sono d'accordo di una cosa, Antone, tanto siete tutti e due pomponi nell'altro Antonello. Io sono più d'accordo con un'antenna tipo anche una Ringo, una Mantova 5, metto un'antenna del genere e vado a tutte le parti e non stai lì a mettere motorini, girare, che poi arriva una ventata di vento e ti trappa motorini a così Antone che si chiama, quelle più semplici, ma non bene lo stesso. Sì, ma non so qual è stata la, diciamo, la mia intenzione. Quando c'è buona propagazione, quando sei in banda laterale, no, per avere un questo abbastanza rifinito, capito? Ci sono dei segnali abbastanza bassi e tu cerchi di puntarla e comunicare con loro. In questo modo avrei preferito farlo, capito? Solo se ci sono anche queste problematiche, questo non ci avevo pensato, è la verità. Se ce l'ho proprio di fronte io Monteoro, le antenne le vedo tutti e due, tutte e tre che siano. Ehi, vabbè, questa è una minchiata che ho detto io prima. È una minchiata che ho detto io. Oh, guardate che ne faccia pure qualcosa, perché a me, io quando ce l'avevo puntata verso Monteoro, così me l'avevo puntata da casa verso Sassari, così puntata, entravo in tutte le televisioni, non so come mai. Però sto dicendo, quando metti tu una Mantova 5, un'antenna del genere sopra il tetto, va già bene, capito? Perché va su tutte le direzioni quella lì, capito? Non devi girare perché è così, e va bene propagazione per tutte le parti, perché non devi una direttiva, ma cos'è? Perché c'è meno spesa a costruirla, quella e quell'altra, e tu riesci a puntare, giri, e invece quella no, quella è il palo, è fatta giusta e prende da tutte le parti, capito? Va da tutte le parti, capito Antone? Non c'è bisogno di fare tutti questi lavori, motorine, cosa, costruire, a fare, poi se lo vuoi fare, farla, no, non ci sono problemi, ognuno fa quello che vuole, però uno se sbriga, se mette una, mette il palo, mette un'antenna, una Mantova 5, una Mantova Turbo come ce l'ho io, e va da tutte le, prendere da tutte le posizioni, capito? Non c'è bisogno di girare niente. E se non posso fare la modifica come ad Antonella? Beh, Antonella, Antonello, siccome io ho la stessa antenna che c'è con Pugno, solo senza radiali, lì posso piazzare più di un radiale all'antenna, diciamo, e ho diciamo, più trasmissione e ricezione alla fine. Pure tu vedi io, per esempio, io entro nel negozio, nel bar, nelle radio del bar, nell'esterio, in tutto, in ogni luogo entro io, e tu spiegami perché, pure c'è una Mantova Turbo messa in alto, su in alto pure ce l'ho, io l'antenna eppure, e non la sollevo di più, perché già ce l'ho alta, se no alla fine che il vento me la butta giù, eppure entro, oggi mi sto parlando con questo apparato, perché sto parlando con questo apparato, perché è chiuso il supermercato, se no entro chiaro chiaro nel bar lo stesso, senza attaccare nulla entro, addirittura nel bar, nella radio lo stereo che c'erano nel bar, sento la voce mia a parlare, quello che dico, capito? È un casotto, comunque boh, l'antenna è meglio metterla, come sto dicendo io, che va molto meglio. Perfetto, no, sono chiedendo per imparare, per valutare un po' la situazione. Comunque se uno diciamo vuole aggiungere un'antenna che non ha i radiali, dunque la lunghezza dei radiali è rilevante, uno può metterla a qualsiasi lunghezza. No, questo non lo so, questo chiederò a Antonello Pompugno, che lui in matematica è più esperto, io non lo so, no, questo non te lo so dire. Non te lo so dire, questo Antonello Pomponi è più esperto. Tanto che quello qui c'è questo microfono. Doveva fare i calcoli per quell'antenna, una volta fatto i calcoli degli elementi, più elementi c'ha, più ricezione e trasmissione c'ha, naturalmente perché si moltiplica in decibel. Comunque il 4 elementi va bene, o anche 2, la verità, già funziona bene lo stesso. Io l'ho fatta a 4 e ci va bene, poi si può fare anche a 2, quello non è un problema. Se c'è la passione si può costruire un'antenna, non è che ci voglia molto, e poi magari la soddisfazione è anche che esce bene così la utilizzi. Poi in seguito magari se ne compriamo una bella come si deve, grande, costa 300, 400 euro, 500 euro ce ne sono, c'è anche la 1000, 1500, dipende. Solo che se con quella da 1500 euro già comincia a essere pesante un po' la cosa, che ci vuole il motore, ci vuole il traliccio e con 15.000 euro già ti riesci. Come compri una macchina? Comunque fatto sta, che calcoli dovresti fare per mettere bisogna fare la distanza da un elemento all'altro, un quarto d'onda bisogna fare. Quarto d'onda, dunque alla fine, io sinceramente i calcoli li so fare. Comunque tu ne hai tre e sono neanche un metro, giusto? Alla fine mettevone quattro dove bisognerebbe diminuire la lunghezza dei radiali. Allora, io l'ho fatto sempre 2,75 metri, perlomeno il direttore si chiama così, e il direttore vuole il 10% in più, quindi da 2,75 fai un 3 metri dietro, per la 2,20. Poi per l'altro naturalmente sono 2,75 e poi davanti 2,50 e 2,40 per fare la 4,20. Non è che siamo tutti la stessa lunghezza, altrimenti, capito? Poi sempre 10%, dietro con il 10% in più, davanti con il 10% in meno. Non so se hai notato, l'antenna del primo canale, per la bocca, è la stessa cosa, anche per la U, per dire, per quella della televisione. Se tu prendi quella di pesce, il pezzo di dietro è più lungo, poi mano a mano che vai negli elementi diventi un pochettino più corti. Va bene, poi un giorno, quando va, se disponibili i libri, vediamo un po' cosa esce fuori. Va bene, continuate, io vi preparo un caffè. Stasera se vuoi venire, vieni, ti pigli quei radiali, così ti riporti a casa, e ce li hai già pronti. L'unica cosa è che devi trovare un cerchietto alla filamenta, capito? Uno di quei cerchietti per cosa, li applichi sotto, tre bulloncini piccolini da 4 o da 6, quelli che sono, e esce un bombo. Vedrai come ricevi meglio e trasmetti meglio. Tanto la base è uguale, è identica alla mia, non cambia niente. Quindi se ci sono i fuori, la puoi anche modificare con l'antenna. E ascolta, ma quegli elementi che stai dicendo tu sono già tarati o vanno tarati? No, no, sono già tarati per la mezz'onda, perché questi sono gli elementi della Super Regibus, che è l'antenna che io ho avuto e purtroppo ho lavorato da sorella, e la sorella si era dimenticata lì piazzata in quel palazzo dove abitava lei, capito? E il padrone di casa, quando sono andato a chiedere il cavo, cosa non me l'ha voluto più dare, capito? Infatti ci ho rimesso 40 metri di cavo e il regino 113 era super rigido, ci ho rimesso di là. Perché la sorella, quando l'ha toccato, non se l'ha trovata presso, se l'ha dimenticata lì, ha piato quello, se l'ha appropriato. E non me l'ha voluto dare, capito? Se tu guardi c'è ancora di là l'antenna, di là di punti piazzata. Era un bombo, non di quelle antenna modello vecchio, ma era una bomba quell'antenna, era. Non c'è solo più in giro così di quel tipo di antenne. Perfetto, mentre pensavo semplicemente cercare quell'attacco di Abricomen, tanto sono 3 o 4 elementi, quanti elementi erano, se non mi ricordo. Elementi sono, quindi quella cerchietto che c'è il fuori, poi si fa appena appena la piega con un come si chiama, in modo che l'elemento quando stringe rimane fermo, capito, bloccato. Oh, Andrecchè, sta per qui, Andrecchè, buono via. Buonasera Spagna. Forse non c'era con noi. Attento al malato di Spagna, escucci la emisora che ti sta parlando. Hola, buonos días, esta es la 30 Limaosca, numeral 3125, de Salvador, desde el sur de España, Marcena, Sevilla. Buongiorno a te, ben escuchado, buona ti, la que te modula la primera alfarima, Corea, Parador Antonio, Isla de Cerdeña, Serrano de Sassari. Buenos días, buona ti. Adelante, hermano. Ah, se parlo spagnolo, ma anche io lo so parlare, non te ne dico niente. Hola Antonio, buonos días. Sì, ti mando un amico che sta parlando conmigo, sta Antonello da Ossilandia. Adelante Antonello, chiamalo. E come si chiama? Qual è il suo nominativo? Salvatore si chiama. Attento Salvatore, se copi Antonello Barracuda col buongiorno, è ben sentito. Hola Antonio, buonasera, io sono del sud di Spagna, un pueblecito cercano a 40 km de Spagna. Un segnale, controllo di segnale. Sì, Antonio, sì. Un controllo, quanto arrivo dalle tue parti, un controllo di segnale, per favore. Hola Antonio, entra aquí muy fuerte, 7-9, 7-9 picando armada, 7-9, un radio muy clarito y muy bonito por aquí, entra muy fuerte, muy fuerte. Gracias, qui tu Santiago 7, Radio 5. Gracias, gracias por ahí, venga, pues nada, pues estupendo, sigan ustedes con su QSO y muchas gracias por aquí, un abrazo de aquí de vuestro amigo del sur de España, Salvatore. De Marcena, Sevilla. Ciao, Salvatore, hasta tosta. Venga, hasta pronto los dos, hasta pronto. Hasta luego, hasta luego. Ciao, Salvatore, ben sentito, sentiamo alle prossime, non ti sto andando via, no, così è andato un po'. Hasta luego, arrivederci. Sì, ya sta facendo quelli sì. Io faccio un attimo di bianco, perché c'è un cane che mi sta assillando. Perché mi ha visto che mi sto vestendo e vuole andare a fare la pupù. Già rientro fra una decina di minuti. Poi allora se ti avvicini in tasse l'acqua, se ti prendo via, ti avvicini 5 minuti, ci beviamo la birra anche, grazie. Ti piace la birra. La metti in frigo. Io vai tranquillo, faccio un caffè veloce, 5 minuti anch'io rientro, vai. E tu Gigi, il caffè non te lo fai? È andato via. Attenzione Antonello, se mi ascolti. Era un minuto. Secondo me Gigi è andato via perché era lo spagnolo. Dici che era Gigi lo spagnolo. Sono qui in ascolto, come ti ho detto che sto facendo roba, e secondo me era lo spagnolo. Ci ha fregato. No, comunque il segnale si vedeva che andava e veniva, non era fisso. Si vedeva che era in propagazione. Cosa ne sai se non stesse modulando da un altro apparato, giocando con l'antenna dietro, mettendo e togliendo l'antenna da dietro, tu cosa ne sai? Io sono pienamente d'accordo, ma parlava perfettamente lo spagnolo. Non credo che sia così bravo a tenersi per i fondelli. Se sei così, complimenti. Secondo me bisogna indagare, ha fatto male a dirla questa cosa, ormai non lo crede più nessuno. E quello già è vero, E vabbè, comunque sbagliando si impara, dai. E cosa stai combinando a casa? Sto mettendo un po' in ordine, mi sto preparando per andare un po' al mare. Ecco, allora dovresti scendere giù a Platta Mona Beach. No, negativo, non ne ho voglia, sto raggiungendo un'amica dalle parti delle saline a Stintino, a Pazzona. Ah, va bene, dai, allora oggi tutti al mare, vediamo anche qua cosa ne c'è fuori, almeno per la bambina, vediamo un po'. Comunque oggi è una giornata abbastanza bella, calma, tranquilla, la verità non c'è nessuno in giro il paese. Lo credo, saranno tutti a mollo. Comunque, dopo aver sentito che Pomponio sta espletando i suoi bisogni fisiologici, io ti auguro buona giornata e ci sentiamo anche dopo. Ciao ciao. Va bene, ci sentiamo più tardi allora. Buon divertimento. Grazie, saluta anche Raggio di Sole. Raggio di Sole, stai al ben alta, penso che preparo il caffè. Ti ho portato una pasta, così si sveglia tranquillamente, dai. 3:51 allora anche a Raggio di Sole, buona giornata a tutti e due, ciao ciao. Ia, ciao, ci sentiamo. Ora, 1, 2, 3, prova. Ora, 7:05, c'è nessuno, cambio. 7:05. Ora, ora, 1, 2, 3, prova. Ora. Attenzione, canale 5, Brecco. Oi, Gianni. Sì, Giuseppe, come sta arrivando lì, che sto provando un portatile di quelli antichi, di quelli che ci avevo fermi da un po' di tempo. Bene, bene già. Io sono qua di fronte all'acquettura, mi stai arrivando bene. E il segnale com'è? 9 più 9, 9 10, dai. Cava, cava. E già va bene allora ancora. E per farlo scaldare un po', Questo qui è quello della valigetta SOS, ce l'è presenti, quelli della Intec. Quello lì è. Cava, cava. Un bel apparato, e va bene anche di radio, vero? Sì, va bene anche di radio, già. Della radio, 1, 2, 3, cambio. Sì, è abbastanza comprensibile, capito già. Io adesso sono qua. E via Succi. Cos'è che stai facendo? Sto andando al circolo perché devo portare una questione, perché lui Mico domani è giù a cosa, Canegione, dunque devo portare lo specchio della macchina di mia nipotina, capito, io dovrebbe piazzare. Chiudono per ferie, allora ci fanno un po' di ferie lì, capito? Ah, anche tuo fratello chiude? Eia, chiude una settimana, penso. Invece una settimana. Vediamo adesso. Non capito. Già va bene, dai. È compreso, dovrebbe esserci da domani, ci dovrebbe essere anche. Se si sente bene, mia madre pure. Un paio di giorni se ne fa lì, capito? E io rimango solo. Solo soletto. E quando? Da domani dovrebbe essere. Cava, cava. Senti, mi che andiamo a farci un giro in moto, cioè così ci prendiamo un po' di fresco. Vabbè, se mi sbrigo sì, se no è perché poi stasera io sono al gay, ho capito. Stasera c'è la sfilata. Io sono Alghero perché lo sai, tu no, devo scendere insieme a mia madre per quella questione là pure. Cava, cava, io voglio essere buoni. Siamo nella coscienza, bubu. Sì, però ci vado insieme a mia madre, voglio essere se ne nega davanti a mia madre pure, se non mi dà delle denari davanti a mia madre. E quelli sono capaci di tutto. Non si mettono problemi. Allora parte la denuncia, parte veramente quello che gli ho detto io, Gli ho detto se non mi date le denari, c'ho cavoli suoi, è capace di poco pure le mani in alto. Cava, cava. Ascolta, così mi senti? Sì che ti sento già. Se ce l'ha appoggiato in terra, eh? Aspetta che cambia antenna. E cappa. Mi senti? Sì che ti sento. E questo sta qui l'antenna interna, come va? Diciamo, non è come l'altra, è un po' più bassa, Vabbè, comunque non pensa così, mi senti, questo qui è l'antennino magnetico interno, va, quello sotto dell'apparato. È più basso, però ci riesco a tirare fuori, capito? Andare, aspetta che arrivo verso l'altra. Caffa che è, sto scendendo, stanno passando un attimo qui al tabacchino, un attimo. Intanto bisogna farla andare perché sennò poi si rovinano, capito? Devono scaldare un pochettino questi apparecchi perché era un bel fermo, e adesso era un bel po' di anni fermo, Caffa. Ha detto noi quando rientra stanotte. No, domani mattina. Domani mattina, va bene. Dai, dammi 5 minuti di tempo, vado a prendermi le sigarette, qua al via Succi. Lascia stare il fumo. Caffa. Fa male. Dai, a dopo, dai, ciao. Dammi una risposta, se non mi disobbedisci, vai giù un caso, me ne sto uscendo da casa. Già, io devo andare a da Nicco, poi non lo so, cosa c'è da fare. Se te ne vuoi uscire, esci, non ci sono problemi, dai. Vabbè, dai. Ma Giuseppe, ci sentiamo. Ciao. Vuoi passare al circolo, passa, in moto, non ci sono problemi, ho già. Non lo so, vediamo, non lo so nemmeno se riesco adesso, perché non mi rimane la gara, la bui. Non voglio uscire solo, mi piace. Dopo vado da mia sorella, rientro a casa, mi metto il pranzo a fare. Vabbè dai, ciao ciao. Ciao ciao. Attenzione canale 5, attenzione 5. Ciao, ciao Giuseppe. Ciao, ciao.